Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Il 15 marzo è una data da libro di storia, ricordiamo le idi di marzo, l'uccisione dell'imperatore Caio Giulio Cesare, ma ricordiamo in tempi molto più recenti, 5 anni fa, l'inizio della guerra in Siria. Sono passati 5 anni, una catastrofe senza pari di cui probabilmente ci siamo resi conto grazie alle immagini, grazie allo spostamento di centinaia di migliaia di profughi, quasi 5 milioni sono i rifugiati, 7 milioni gli sfollati interni, centinaia di migliaia di vittime di cui però abbiamo quasi subito perso la memoria. Di questo argomento si parla nel nuovo dossier pubblicato dalla Caritas Italiana proprio in questi giorni per aiutare a riflettere sul dramma di uomini, donne e bambini spesso rifiutati come in Europa, e abbiamo ben presente le cronache di questi giorni, oppure merce di scambio tra chi li accoglie e chi non li vuole. È significativo il titolo di questo documento, appunto, Cacciati e Rifiutati, dedicato proprio al dramma della Siria, un popolo in esodo senza terra promessa tra Medio Oriente ed Europa. Dal testo emergono dati, testimonianze, frutto di una ricerca sociologica sul campo, quindi tutto ampiamente documentato, anche sentendo di persona le testimonianze di siriani rifugiati che si trovano in Libano. La Caritas Italiana con questo dossier lancia 2 appelli. Il primo per l'aiuto immediato. Tutti a ogni livello di responsabilità individuale, locale, nazionale e internazionale devono rispondere. Le Nazioni Unite dicono che i finanziamenti per i rifugiati stanno diminuendo. Ovviamente questo non è accettabile. Secondo appello, può sembrare ovvio ma non bisogna mai stancarsi di farlo, è quello per la pace. Lo sta ripetendo Papa Francesco. È necessario insistere, chiedere a livello di governi e di istituzioni internazionali. Accanto ad ogni intervento di aiuto ci deve essere la denuncia costante per non rassegnarsi al dramma dei profughi che fuggono dalle guerre e da altre situazioni disumane, aprendo la strada al dialogo e alla pace tanto desiderata. Dall'inizio della crisi siriana, quindi c'è la data ufficiale dell'inizio del conflitto, 15 marzo 2011, fino a tutto lo scorso anno, la Caritas Italiana ha risposto agli appelli della Caritas Siria, delle Caritas nazionali dei paesi del Medio Oriente che hanno accolto e stanno accogliendo i rifugiati. Sono la Giordania, il Libano, la Turchia, la Grecia, Cipro. Gli interventi in totale sono 2.800.000 euro, di cui 1.200.000 euro nella sola Siria. Già per questo 2016 è stato messo a disposizione un altro 500.000 di euro circa. Quasi ovunque si tratta di programmi di assistenza di base, viveri, medicine, alloggi, per quanto precari, ma sempre meglio di un cumulo di pietre a cui praticamente è ridotta buona parte della Siria. In alcune zone è anche possibile sostenere l'istruzione, che altrimenti viene persa, ma rimane tantissimo da fare, nonostante l'impegno degli operatori, dei volontari in condizioni difficilissime. Ricordiamo anche appena un mese fa la morte di un volontario della Caritas Siria ad Aleppo. Elias Abiad aveva 22 anni, è stato ucciso da una scheggia di mortaio. Questo dossier di Caritas Italiana segue gli altri 12 già pubblicati dall'anno scorso, dedicati ai temi della crisi in Grecia, dello stesso conflitto in Siria, i carcerati, e poi Haiti, lo sfruttamento lavorativo in Asia, la condizione giovanile in Bosnia e Erzegovina, le migrazioni nel Corno d'Africa, i cristiani perseguitati in Iraq, lo sfruttamento ambientale in Repubblica del Congo, la salute mentale e la dignità dei malati nei paesi balcanici, lo sviluppo sostenibile in Asia, America Latina e Africa, la povertà e la disuguaglianza ad Haiti e il diritto alla salute in Africa. È un dossier molto corposo di una ventina di pagine, ma ampiamente documentato. Io ne sto prendendo spunto appunto per questo approfondimento di questa settimana e traggo solo alcune idee da questa ventina di pagine. 260.000 siriani uccisi, più di 8 milioni le persone sfollate che cercano all'interno del paese, all'interno della Siria, un rifugio appunto dai proiettili, dalle bombe. Circa 5 milioni invece le persone che dal 2011 hanno lasciato la loro terra, e maggioranza si trovano nei paesi limitrofi, appunto il Libano, l'Iraq, la Giordania e la Turchia, paesi che come sappiamo non sono in tutti i casi paesi molto stabili. Donne, uomini, bambini, famiglie costrette ad abbandonare le case e le cose di una vita in cerca di protezione e di libertà dal timore che impedisce di vivere una quotidianità normale. E qui la guerra non ha fatto differenza tra i ricchi e i poveri, sono dovuti scappare anche i benestanti, i professori universitari, studenti, imprenditori, insomma. Sono tutti in fuga e le loro storie appunto sono storie che vengono raccolte in questo dossier della Caritas. C'è un problema a livello internazionale tra fazioni politiche, milizie e stati. Nella guerra in Siria, pensate, sono coinvolte ben 97 realtà, non 4 o 5. E poi gli stati nazionali, quanti sono quelli coinvolti? 25 in tutto, almeno quelli dichiarati. È una specie, è un pezzo magari significativo della terza guerra mondiale combattuta a pezzettini, come ha detto il Papa. Cosa c'è in Siria? C'è il più grande bacino di idrocarburi del mondo, ma anche il controllo della leadership mondiale, la Russia di Putin, che è lì presente appunto e sta sostenendo Assad, contro cui si era scatenata la rivolta proprio 5 anni fa. E poi c'è la leadership regionale, chi comanda in Medio Oriente? La Turchia, l'Arabia Saudita, l'Iran, l'Iraq, Israele, queste sono questioni molto complesse. All'interno di questo dossier si ripercorrono tutte le fasi del conflitto che spesso poi noi abbiamo dimenticato, travolti dalle cronache quotidiane. Ci sono anche interessanti testimonianze all'interno, raccolte proprio da queste persone che sono ospiti dei campi profughi, soprattutto in Libano, o che sono fuggiti da poco, e vengono descritte anche tutte le iniziative che Caritas ha messo in campo. Pensate ad esempio solo al problema dei kit igienici, cioè l'igiene personale, che era una cosa ordinaria anche per i cittadini della Siria, di fatto è una cosa che non è più possibile avere o applicare quotidianamente a se stessi, ai propri figli, ai propri parenti. Ovviamente Caritas continua a denunciare la situazione di squilibrio, evidenziando poi quali sono i problemi di chi scappa. Chi fugge è salvo in qualche modo, ma poi scattano i sensi di colpa, i familiari, gli amici rimasti, che fine faranno? Si scappa ma senza in realtà una destinazione. Poi lo status di rifugiato che si attende per tempi imprevedibile, una specie di limbo. Alla fine non si può scegliere nulla. I rifugiati per motivi di guerra non godono di reti di amicizia su cui appoggiarsi, tranne i pochi che magari hanno qualche parente all'estero o i benestanti. Tornare a casa rimane per lo più un desiderio che rimarrà insoddisfatto. Dentro dunque molte storie, anche tutto il dettaglio sulle iniziative messe in campo in questi anni. Ricordo caritasitaliana.it, dalla home page c'è questo interessante dossier sulla Siria. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.